Che legge, che legge, che loco, che sorte, che sorte, che loco, tiranno spietata, spietata. A chi mi condanna, a chi mi condanna, corone, ma che corpo, barbaro, barbaro, barbaro, cuore. Che legge, che tiranna, che sorte, spietata, che sorte, spietata. Chi mi condanna, un'anima ingrata, ingrata, spietata, che tiranna, un'anima ingrata, un barbaro cuore, un barbaro cuore. Crudeltà giro, ma penso che questo silenzio molesto, misero, misero amante, è troppo dolor, è troppo, è troppo dolor. Che legge, che legge, che loco, che sorte, che spietata, tiranna,